l'altra Europa. Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Siamo in diretta dalla fortezza di Montepulciani, provincia di Siena, al festival Luci sul Lavoro, immagini, musiche e parole che raccontano il lavoro, con il nostro appuntamento settimanale dell'altra Europa. Cerchiamo spesso di raccontare l'Europa delle possibilità e delle opportunità. Oggi quindi la nostra luce andrà proprio in quella direzione, una giostra di ospiti, alcuni protagonisti qui del festival, altri che ci hanno raggiunto perché sono protagonisti col loro lavoro di questa Europa che cerca di essere presenti in maniera concreta sul territorio. Do il benvenuto a Antonio Panzieri, europarlamentare. Buongiorno Panzieri. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come sta l'Europa? È ricoverata. Però è già un buon segno, vuol dire che ci si accorge che qualcosa non va. È ricoverata, però c'è accanimento terapeutico nei suoi confronti, no? No, direi di no, ma non è neanche prognosi riservata. Direi che in questo momento si sta cercando di trovare il farmaco giusto, diciamo. È appena stato protagonista della plenaria intitolata Visti dall'Europa, lavoro, diritti e globalizzazione dell'economia. Poi toccheremo questo argomento. L'Europa concreta sul territorio. Do il benvenuto a Sabina Riatti, che è consulente della rete EURES. Ciao Sabina. Buongiorno a tutti. Allora, diamo subito la definizione di EURES. Che cos'è? È un acronimo di European Employment Services. È una rete europea di mobilità, una rete europea per il lavoro, specializzati in lavoro. Uh-huh. Che si trova, insomma, fisicamente nei servizi pubblici per l'impiego. È una sorta di grande catalogo, veramente delle possibilità e delle opportunità. L'abbiamo sfogliato spesso per vedere, perché è la mobilità in senso positivo, è la mobilità che diventa non la fuga, ma l'andare verso qualcosa. Sì, vero? Né una fuga di cervelli, né niente di simile, una mobilità circolare. Sì, il nostro scopo è promuovere una mobilità circolare e far sì che persone disoccupate in uno Stato europeo possano trovare un'occupazione in un altro Stato europeo, perché è un dato di fatto che in Europa abbiamo i bottlenecks, colli di bottiglia, quindi surplus di alcune professionalità in uno degli Stati che però invece troverebbero un'occupazione in un altro di questi Stati. Per questo è stata creata questa rete nel 1993 dalla Commissione europea. Mm-hmm. All'inizio coinvolgeva i 10 stati, in questo momento i 28 stati che fanno parte dell'Unione Europea, gli altri 3 dello spazio economico, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, e per accordi ancora per il momento la Svizzera. Cerchiamo di capire nel corso della puntata come funziona operativamente, quindi dove bisogna bussare, come bisogna muoversi per appunto sfruttare questa possibilità, e poi ci sono le storie. In Marocco avevo un negozio di vestiti con 7 dipendenti. Poi un'amica di Brescia ha fatto vedere i miei vestiti alla sua datrice di lavoro e le sono piaciuti. Ed ho pensato che per me poteva essere un'opportunità trasferirmi in Italia. E per entrare regolarmente hanno dovuto farmi un contratto da badante. Non mi sono trovata così bene nel negozio della signora e così ho deciso di fare davvero la badante. Ringrazio Valeria Bassi dell'associazione Il Grifo ed Il Leone di Montepulciano. Ciao Valeria. Ciao, buongiorno. E tu hai fatto un bellissimo lavoro con l'associazione, un lavoro finanziato da un progetto dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno. Sì. Un progetto legato alle donne del territorio. È un progetto legato alle donne, finanziato da fondi europei, perché è il Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi, e ormai siamo già al quarto progetto finanziato e lavoriamo appunto con le donne straniere di questo territorio, della Val di Chiana Senese, quindi siamo nel sud della provincia di Siena, e è dal 2010 che lavoriamo qua. Abbiamo selezionato alcune di queste storie, parlano di donne e di lavoro e ci accompagneranno come colonna emotiva della puntata. Panzieri, si pensa sempre all'Europa come qualcosa di cattiva, qualcosa di lontano, qualcosa dove è solo il regno della burocrazia. Poi qui in pochi minuti abbiamo già raccontato storie di Europa concreta. E c'è un problema di comunicazione, c'è un problema nel farsi conoscere, c'è un problema culturale, un problema di approccio. Dov'è il nodo? Ci sono tanti nodi, per la verità. Devo dire che c'è senza dubbio un problema di comunicazione, la necessità che l'Europa riesca a vendere meglio il proprio prodotto e soprattutto che riesca ad essere conveniente per i cittadini, cosa che non riesce ancora a fare. Ma poi c'è anche un problema che riguarda i singoli stati e la comunicazione dei singoli stati. Ringrazio questo momento di discussione sull'Europa, ma generalmente noi non abbiamo, ad esempio in Italia, la possibilità di avere uno sviluppo concreto della comunicazione sui fatti europei, e come vediamo i fatti europei sono ormai centralissimi in tutte le nostre vicende politiche, sociali, economiche. Quindi direi che c'è un problema europeo, ma c'è anche una scarsa disponibilità dei singoli stati a capire che il prodotto europeo è un prodotto che deve valere. E la porta invece sulle tematiche anche del festival, è il diritto al lavoro o sono i diritti ai lavoratori che mancano oggi in Europa? Qual è il tema più a rischio? Sono i diritti complessivamente intesi. Ho l'impressione, lo dicevo questa mattina, che ormai la questione dei diritti sia diventata un tema di secondo ordine. Prevale di più l'aspetto della sicurezza e meno quello dei diritti. Questo lo vediamo in tutti i settori, particolarmente ad esempio per quanto riguarda il tema dell'immigrazione. E quindi è indispensabile riproporre la questione dei diritti. L'Europa è nata e sorta sul tema dei diritti. Non dobbiamo mai dimenticarci di questo, e quindi è indispensabile che questo tema venga riproposto con molta forza. È difficile perché scarseggiano le risorse. Una delle crisi che noi abbiamo, che riguarda ad esempio il movimento sindacale, è dovuto alla crisi redistributiva. Se hai poco da distribuire va in crisi anche il modello di relazioni sindacali. Ma noi dobbiamo riproporlo con forza, perché un'Europa senza diritti è semplicemente un grande mercato nel quale ognuno fa quello che ritiene opportuno, e come sempre succede, la storia insegna, vince il più forte, danneggiato è il più debole, e noi dobbiamo stare oggettivamente dalla parte dei più deboli. Questa è l'Europa. Adesso ci fermiamo il traffico, poi torniamo qua in diretta dalla festa, dal Festival Luci sul Lavoro di Montepulciano. L'altra Europa. In Moldavia ero medico. Lavoravo in un centro di riabilitazione. Mio marito era ingegnere. Ma la situazione là non era semplice. Siamo arrivati in una città del nord Italia con un pulmino. Ci aspettava un amico di mio marito. In realtà non era un vero e proprio amico. Era uno che gestiva questi viaggi. E dopo quel giorno non si è fatto più vedere. Ci siamo spostati in una città del centro Italia, dove c'era mia nipote. Lei mi ha detto che gli uomini potevano lavorare nei boschi, ma per le donne non c'era niente. E mi ha anche detto: io non voglio nessuno in casa mia, devi stare per strada come ho fatto io. Mio marito è andato a lavorare in un bosco come taglialegna. Io ho vissuto in un parco per 2 mesi. Era novembre e faceva molto freddo, pioveva. Dormivo la notte vicino ad un albero, legata con una cintura. E tutte le mattine veniva da me una signora di Roma, mi faceva delle domande, ma io non capivo niente. E all'inizio avevo paura. Poi ho deciso di andare con lei, a casa di sua suocera. Ho fatto una doccia e ho dormito 2 giorni di fila. La signora di Roma mi ha chiesto di badare a sua madre, che aveva 95 anni, e io ho accettato. Così con lei ho iniziato anche a parlare italiano. Storie di donne che hanno scelto di raccontarsi e diventano ora racconti, letti dall'attrice Valeria Bassi qui all'Altra Europa, oggi Luci sul Lavoro. Parliamo di lavoro, parliamo concretamente, torniamo ad Eures con Sabina Riati. Sabina, come funziona? Io sono un disoccupato o non solo, sono una persona che ha voglia di cambiare lavoro, di cercare nuove prospettive, e si bussa alla rete Eures, qual è lo sportello, qual è la porta d'ingresso? Ci possono essere 3 porte d'ingresso in realtà, nel senso che il servizio è composto da una rete umana di circa 900 consulenti Eures in tutta Europa e 75 in Italia, e da referenti circa un paio in ogni centro per l'impiego di tutta Italia. E quindi è possibile rivolgersi direttamente a noi tramite front office, venendo a trovarci negli uffici dei centri per l'impiego, oppure iscrivendosi al portale, che è il nostro strumento principale, nel senso abbiamo come strumento questo database che contiene in questo momento più di 1,5 milioni di offerte di lavoro. 160.000 curricula registrati e 4.000 aziende registrate. È possibile accedere al portale e consultare le offerte liberamente, quindi anche da casa. Uh-huh. Ultimamente c'è anche uno strumento in più molto importante, che è una piattaforma che consente di partecipare a fiere del lavoro anche online, quindi anche da casa è possibile partecipare a colloqui di lavoro, sentire presentazioni aziendali, programmarsi insomma interviste per le fiere di lavoro che avvengono in tutta Europa spessissimo, circa ogni mese. Sabina, bisogna avere formazioni particolari, bisogna assolutamente conoscere le lingue o ci sono comunque proposte a livelli diversi? Diciamo che nel 2015 sarebbe importante conoscere le lingue per potersi muovere, quindi non improvvisare come i nostri nonni una partenza con le valigie di cartone senza essere sufficientemente preparati. I nostri concorrenti europei sono piuttosto agguerriti, quindi devo dire che sarebbe meglio conoscere la lingua straniera, anche perché ci sono programmi che consentono la possibilità di formarsi a livello linguistico prima di partire, danno contributi finanziari anche per questo. Uh-huh. Però abbiamo tutte le professionalità nel portale, proprio tutte, da ingegneri, medici, infermieri fino a manovali comuni. E quindi è possibile accedere a tutte. Ci sono ancora offerte anche per Italian speaker senza che non debbano conoscere altre lingue. Ricordiamo i portali eures.europa.eu oppure cliclavoro.gov.it, sono due coordinate di riferimento. Panzeri, faccio la domanda al politico italiano che però appunto è nell'Europarlamento, quindi la doppia identità politica. Questa mobilità, che è la mobilità che favorisce Eures dal punto di vista politico, è un valore aggiunto o comunque l'italiano che va oltre confine a cercare lavoro viene sempre visto come un piano B, come una scelta alternativa, come una scelta obbligata? No, perché bisogna sempre di più considerare, così almeno io la penso, l'Europa come grande mercato del lavoro. E quindi dovremo necessariamente sempre guardare a questo orizzonte, non deve essere visto come semplicemente una fuga dall'Italia perché l'Italia non è in grado, no, c'è una possibilità di avere una mobilità circolare e bisogna anche realizzare questo obiettivo. Tuttavia, per la politica, io considero questi servizi importanti, ma sono servizi che cercano di coniugare al meglio domanda e offerta di lavoro. Per lungo tempo però noi abbiamo sovrapposto la politica del lavoro con la politica dell'occupazione, sono due cose oggettivamente diverse. La politica del lavoro è appunto la messa in campo di norme, strumenti che siano in grado di coniugare al meglio, ma la politica per l'occupazione significa avere una politica degli investimenti che allarghi la base produttiva, perché sennò continueremo a pestare l'acqua nel solito mortaio. Se non allarghiamo la base produttiva potremo inventarci tutti gli strumenti possibili e immaginabili, ma sarà sempre una concorrenza forte sul mercato del lavoro perché non si espande. E il compito della politica a livello europeo è la modifica di questo approccio di austerità, come abbiamo visto nella vicenda della Grecia e non solo, proprio per rilanciare una politica di crescita e di sviluppo che è l'unica che può permettere di soddisfare al meglio la questione occupazionale. E poi entra in gioco l'innovazione a 360 gradi. Diamo il benvenuto a Massimiliano Colella, direttore generale di Asset Camera. E rispetto a Maker Faire, sei l'organizzatore? Sì, ok, sì. Scusami. Che sì. Maker for Roma, che sei qui a presentarlo. Di cosa si tratta? Si tratta della più grande fiera europea dedicata all'innovazione e al movimento dei maker. Il movimento dei maker, insomma, è un termine un po' così americano, che ha però in realtà una profonda ramificazione nella cultura europea, nella cultura della manifattura europea. I maker non sono altro che degli inventori di prodotti, di servizi, ma in particolare di prodotti, di manufatti fatti con tecnologie a bassissimo costo, spesso in autoproduzione, spesso inventano le cose che poi si trasformano, che risolvono un bisogno sociale ma che poi si trasformano in prodotti di mercato. È stata una grande sfida, io la definisco, non la definisco né fiera né mostra, né un grande momento di networking, soprattutto una grande sfida culturale. Uh-huh. Cioè, dove l'emblema è la stampante 3D, ormai sta diventando anche un gioco questo. Sì, sì, l'emblema è stata la stampante 3D. Siamo all'invenzione del braccio robotico, siamo all'invenzione della macchina, come dire, intelligente, siamo all'invenzione di tante cose, ma soprattutto una grande sfida culturale in un momento di crisi del mondo del lavoro, perché è una risposta alla una risposta dei nostri giovani, ma non solo dei nostri giovani, che vogliono mostrarsi, che vogliono andare oltre con una grande capacità autoimprenditoriale, come dire, che tende ad allargare quella base produttiva di cui parlava l'onorevole, e che in Italia ha avuto un epicentro fortissimo a Roma. In 2 anni siamo passati da 35.000 visitatori a 90.000, e con un successo straordinario e con un elemento che ha destato in tutti noi, anche noi che l'abbiamo organizzata, diciamo, un grande interesse, perché è una fiera in cui la gente viene e ci sta delle ore, dalla mattina alla sera. Mm-hmm. Cioè vuole conoscere da qualsiasi cosa vede dall'inizio alla fine, vuole imparare, vuole capire come funziona, e questo è un elemento che ci ha, come dire, sorpreso e allo stesso tempo rassicurato, nel senso che, come dire, siamo un paese che ancora ha una grande cultura manifatturiera e su questa cultura ha grandissima voglia di innovare. Massimiliano, una grande fetta dei maker sono nativi digitali, spesso i nativi digitali sono anche euronativi, perché sì, sono nati proprio respirando il concetto di Europa. E c'è proprio un cambio di approccio verso l'Europa nei giovani che incontri, quindi l'Europa vista veramente come un grande palco, come una grande opportunità, come anche un qualcosa dove comunque sì, bisogna sbattersi, perché trovare i fondi europei a volte è complicato, perché la burocrazia c'è, perché ti chiede di essere trasparente, perché ti chiede competenze. Però tutto ciò non viene visto come fastidio, ma viene visto come quasi un incentivo. No, nei nostri momenti, cioè nelle nostre fiere, come dire, non c'è barriera, non c'è stato che tenga, non c'è paese, non c'è Consiglio europeo, cioè ci sono tanti ragazzi che parlano tutti la stessa lingua, italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo. I progetti, noi siamo la European Maker Faire, cioè l'edizione europea della Maker Faire, che nascono in America, ma poi insomma la nostra è diventata ormai a livello numerico pari alle 2 più grandi americane, ma non esiste barriera, si parla tutti la stessa lingua, voglia di futuro, voglia di innovazione, voglia di cambiamento, non irrigidirsi dietro steccati soliti, grande scambio culturale, grandi momenti di networking. Infatti la cosa che chiedono di più questi ragazzi, ragazzi meno giovani, insomma chiunque viene, vengono da ogni parte del mondo: Olanda, Francia, Germania, Belgio, Inghilterra, Norvegia, Serbia, ma oltre, Canada, Stati Uniti, Giappone. L'anno scorso abbiamo ospitato tanti maker africani che fanno dei progetti interessantissimi. È quello di conoscersi, scambiarsi le competenze, al di là della lingua, al di là delle barriere, al di là delle culture, al di là delle religioni, al di là di qualsiasi cosa. È il concetto di sharing, appunto, sharing, anche delle competenze. Sì. E dacci le coordinate, quando, dove e il sito internet di riferimento? Allora, le coordinate sono innovative anche per le coordinate, perché quest'anno per la prima volta l'università più grande di Europa chiuderà per 3 giorni, la Sapienza, l'Università della Sapienza di Roma, chiuderà per 3 giorni all'attività didattica e sarà destinata interamente alla Maker Faire, quindi 14.000 metri quadrati di spazi espositivi all'interno di un'area di circa 70-80.000 metri quadrati al centro di Roma, 16, 17 e 18 ottobre. 3 giorni dalla mattina alla sera a visitare e a conoscere le più belle innovazioni del momento. Voglio ringraziare i curatori della manifestazione, Riccardo Luna, che so che fra un po' probabilmente sarà in contatto anche con voi, e Massimo Banzi, l'inventore, un italiano inventore di questa piccola scheda Arduino conosciuto in tutto il mondo. Il sito è www.makerfairrome.eu e su quel sito scoprirete tutte le novità da qui a ottobre. Perfetto, grazie davvero a Massimiliano Colella. È quasi il tempo della pubblicità, salutiamo l'onorevole Panzeri. Onorevole, ma quando ha voglia di respirare Europa, dove va? Va a Bruxelles, va nel palazzo, quando ha voglia di assaggiare la vera Europa? Beh, nelle diverse capitali. Sì, è lì. Sì, okay. Sì. Bisognerebbe riportare in modo molto più europeo, anche perché lo è, si presta come città, è meno germanocentrica Berlino. Sì, è lì, è lì che bisogna lavorare. grazie molte. La pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. L'Altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, ancora l'Altra Europa, sempre in diretta dal Festival Luci sul Lavoro, immagini, musica e parole che raccontano il lavoro. Lavoravo come sarta, vivevo con mia mamma, non ero contenta di venire in Italia, stavo bene in Cina, ma quando sono arrivata qui ho visto il mare e non l'avevo mai visto. Ho iniziato a lavorare con altri cinesi, non parlavo italiano e dunque ero costretto a lavorare con loro. In quella fabbrica ho incontrato mio marito. Non ci piaceva quello che facevamo e ci siamo trasferiti qui in Toscana. Ora ho un'attività in proprio, lavoro a casa come sarta. Mio marito non lavora, mi aiuta con la casa e con i bambini. Per voi italiani la famiglia è la cosa più importante. Per noi cinesi invece è il lavoro la cosa più importante. Ma qui ho capito che ci sono altre cose importanti, come la salute. Grazie ancora a Valeria Bassi e le sue storie della rete Migrant Women, storie di donne, storie di lavoro, storie di Europa. Do il benvenuto agli ospiti, c'è stato un cambio alle sedie, con noi ora Daniela Rondinelli, consigliere del Comitato Economico e Sociale Europeo e vicepresidente del gruppo lavoratori. Buongiorno Rondinelli. Buongiorno Federico. Allora, Comitato Economico e Sociale Europeo, diciamo subito che cos'è? Che cos'è? Infatti nessuno lo conosce perché è l'istituzione più piccola dell'architettura di governance a livello d'Unione Europea, quindi insieme al Parlamento, alla Commissione e al Consiglio Europeo c'è questa piccola istituzione che rappresenta, che ha innanzitutto un ruolo a carattere consultivo, quindi noi esprimiamo pareri rispetto alle politiche e ai percorsi legislativi posti in essere dalla Commissione Europea, quindi interveniamo sia nell'elaborazione delle politiche a valle, ma soprattutto nel processo legislativo tra le varie istituzioni europee. Il Comitato è composto dalle parti sociali e dalle organizzazioni della società civile che vengono da tutti e 28 i paesi aderenti all'Unione Europea. Nel Comitato siamo suddivisi in tre gruppi: il gruppo 1 che rappresenta il mondo imprenditoriale e le associazioni datoriali, il gruppo 2 le organizzazioni sindacali e il gruppo 3 gli interessi diversi, quindi le organizzazioni della società civile che rappresentano le donne, i disabili, i minori, il mondo della cooperazione, il mondo agricolo, quindi tutte organizzazioni che sono portatori di interessi diversi. E quindi lavorando congiuntamente a livello trasversale tra paesi e tra gruppi diversi che rappresentano interessi diversi, elaboriamo dei pareri e facciamo sentire il nostro punto di vista soprattutto alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo e ai parlamentari europei. Vi ascoltano? Dipende dalla materia. È chiaro che al nostro interno il processo democratico porta ad una votazione dei pareri che tanto più vengono eletti all'unanimità, tanto più a una forza politica per la quale noi possiamo portare la nostra parola verso le altre istituzioni europee e diciamo che ci ascoltano. Molte sono state le decisioni o anche i percorsi legislativi, proprio perché questo è previsto dal trattato, che hanno preso in considerazione il punto di vista della società civile e delle parti sociali, quindi da questo punto di vista è un laboratorio molto interessante perché concorre effettivamente. Poi è chiaro, da un punto di vista formale e giuridico il sentirci non c'è, quindi è chiaro che non c'è un obbligo giuridico, ma riscontro una volontà politica invece di ascoltarci. E Daniele, un'ultima domanda poi prima di passare agli altri ospiti: se ti chiedessi di fare una fotografia di quello che è il mercato del lavoro in Europa oggi, quindi un qualcosa di molto sintetico, un'istantanea, quali sono le immagini che daresti? Quali sono i numeri più interessanti, più, che narrano quella che è la situazione? Allora, è una domanda molto complessa perché dobbiamo un po' vedere la medaglia dalle due facce. È chiaro che stiamo vivendo una crisi molto importante e quindi le ripercussioni sul mercato del lavoro e sulle politiche dell'occupazione sono molto rilevanti. I dati ovviamente sono preoccupanti perché una crisi del genere non si è mai vista se non dopo il secondo dopoguerra, quindi effettivamente parliamo di 24 milioni di disoccupati, di 7 milioni di nette, quindi di giovani che tra i 15 e i 24 anni sono proprio scoraggiati non soltanto a cercare un posto di lavoro ma addirittura un corso di formazione, un corso di riqualificazione professionale. Il 13% di questi ragazzi non ha finito la scuola secondaria, ci sono 26 milioni di bambini a rischio povertà in Europa, quindi da una parte c'è questo tipo di fotografia che sicuramente è preoccupante e pone non solo le istituzioni europee ma penso i governi e tutti i cittadini a dare risposte collettivamente rispetto a questa emergenza occupazionale che esiste, soprattutto quella dei giovani. D'altra parte vediamo un mercato del lavoro a livello europeo abbastanza dinamico, l'esperienza di Oreste da questo punto di vista ce lo dimostrano, cioè quando i giovani, quindi la generazione Erasmus, non è un problema per loro andare a vivere e a lavorare in un altro paese, cioè non è una costrizione o un'immigrazione forzata, ma anzi un'opportunità. Anche da questo punto di vista, rispetto al mercato del lavoro europeo, assistiamo a una segmentazione, quindi da una parte ci sono figure professionali che assolutamente mancano, quindi in un processo per esempio di digitalizzazione della produzione di beni e servizi mancano tutte le figure professionali attinenti a questo. Per esempio l'altro giorno un ricercatore, tra altre cose italiano, ha portato una ricerca dove mancano gli analisti di dati nel settore del videogame e della sicurezza privata, quindi coloro che analizzano i dati di accesso alle reti, li elaborano e li trasformano rispetto a un'analisi sociologica del fenomeno. Mancano tantissime figure professionali nella green economy, nell'agricoltura, quindi tutta la parte di informatizzazione nell'agricoltura e nella trasformazione dei prodotti in agroalimentare. D'altra parte ci sono appunto sacche di lavoro di giovani anche poco qualificato, poco remunerato, problemi legati a un divario retributivo tra uomini e donne che nella media europea è ancora del 17% e che arriva al 39% se consideriamo le pensioni, quindi c'è ancora molto da lavorare. Certo, molti problemi sono legati alla crisi che stiamo vivendo, ma credo che i giovani, la loro cultura, la loro propensione a guardare fuori dai loro confini nazionali dà una speranza di sviluppo delle professionalità e dell'occupazione. Non studiano, non lavorano, non partecipano a processi formativi, sono i NEET che sono tanti, sono sempre di più, sono ancora poco conosciuti perché è un fenomeno che ha mille sfaccettature, però per fortuna subentra poi la creatività di chi cerca di andarli a cercare e di proporre loro delle alternative possibili. Do il benvenuto a Irina. Irina, ho detto bene il nome, il cognome lo lascio dire a te così non lo sbaglio, che è Guraziu, sì. Ci ho preso, bravissimo. Ballo sempre con gli accenti. Project Manager di Open Com, che cos'è OpenCom e cosa vi siete inventati? OpenCom è un ente non profit, è un ente rappresentante della società civile italiana che lavora molto con i giovani e con le istituzioni per favorire l'inclusione e l'occupabilità dei ragazzi, soprattutto dei giovani, e tramite anche la loro formazione sul campo, formazione e-learning, formazione a 360 gradi. Il progetto a cui fai riferimento si chiama The Backstage, è stato ammesso a finanziamento appunto dal programma Erasmus Plus Giovani, ha come promotore Officine della Cultura e ha lo scopo di aiutare l'occupabilità dei giovani ragazzi trasferendo loro le competenze utili per diventare dei tecnici teatrali, quindi saper lavorare nella fonica, con le luci, scenotecnica, macchinisti, che è un settore molto attraente per loro e quindi che li potrebbe aiutare ad uscire da questa condizione che è assolutamente spiacevole, che deriva anche da diversi fenomeni sociali, che non per forza, anche da una demoralizzazione generale che non dipende da loro, e che potrebbe aiutarli appunto ad entrare nel mondo del lavoro, soprattutto a favorire la loro occupabilità. apprendendo e imparando da quello che succede negli altri paesi europei. Quindi questo, l'inclusione nel mondo del lavoro viene coniugata attraverso il senso di Europa, l'apprendimento delle culture degli altri paesi, l'apprendimento delle lingue. Faremo per esempio un glossario delle lingue, dei termini tecnici. Certo, da usare, sì, in giro per, esatto, Europa quando ti trovi in tournée. Insomma, questo mi sembra che sia un progetto piccolo ma significativo, sì, ma come deve essere l'Europa anche, cioè piccola, esatto, e significativa ma presente sul territorio. È in una fase di studio, state facendo, sì, l'analisi dei bisogni, quindi ne riparleremo sicuramente all'altra Europa di questo progetto, perché ci piace. Invece in atto ce n'è un altro, sì, proprio in queste ore ci sono dei ragazzi coinvolti, vero? Noi sì, abbiamo tramite Estra, abbiamo avuto a finanziamento un progetto, sempre grazie al programma Erasmus Plus, però formazione professionale, un progetto di giovani che vanno all'estero a fare un tirocinio formativo di 2 mesi. Sono tutti diciottenni, quindi anche loro giovanissimi, ancora iscritti agli istituti superiori oppure neodiplomati, che vanno all'estero, fanno prima un corso di lingua, appunto per favorire anche l'apprendimento delle lingue. Io sono andata all'estero, li ho trovati, ho visto diversi di loro, devo dire che fanno miracoli con lo spagnolo, in un paio di giorni già si capiscono. Ma anche col portoghese se la cavano abbastanza bene, e loro sono lì appunto per fare un tirocinio in azienda, quindi è molto, è una sfida grossa per loro, perché vanno via di casa per la prima volta, vanno all'estero in una città che non conoscono, con ragazzi che non conoscono, perché questo è un progetto che include ragazzi da tutta Italia, quindi in un certo senso aiuta anche la conoscenza delle altre culture, regioni d'Italia, perché abbiamo ragazzi del centro, abbiamo ragazzi di Cuneo che vivono insieme con ragazzi di Grottaglie, ragazzi di Cetraro che vivono tutti a Lisbona, conoscono ragazzi finlandesi, spagnoli, quindi è un senso europeo bellissimo. Forte senso di appartenenza. Grazie Rina. E Opencom, linetaitaly.org oppure officine della cultura.org, i due siti di riferimento per approfondire queste tematiche. E Sabine, una domanda veloce ad Eures, c'è una fascia di età privilegiata che bussa quella porta? Sono i giovani, sono i cinquantenni che hanno perso il lavoro? Recentemente anche i cinquantenni che hanno perso il lavoro, ma anche gli extracomunitari che possono spostarsi in alcuni stati europei grazie a una direttiva 109 del 2003 che consente loro di ottenere un permesso di soggiorno, cioè che può essere trasformato in permesso di soggiorno per un altro Stato membro. Comunque abbiamo tutte le categorie. Moltissimi giovani ultimamente, anche grazie a un progetto a cui partecipiamo, e anzi il Ministero del Lavoro ne è capofila con successo per la seconda volta, che si chiama Il tuo primo lavoro Eures, sempre cofinanziato dal fondo ISI della Commissione Europea, e che consente di avere dei supporti finanziari, oltre ai normali servizi di orientamento e matching nostri, supporti finanziari per andare a sostenere un colloquio in un altro paese o per trasferirsi in un altro paese nel caso in cui si abbia un contratto, un tirocinio. Quindi. Insomma, quindi le opportunità ci sono, la mobilità è un po' la parola chiave, bisogna anche darsi una mossa, bisogna un po' alzarsi e cercarle queste opportunità. Ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. Eccoci qui ancora con l'altra Europa, ancora luci sul lavoro, immagini, musica e parole che raccontano il lavoro. Do il benvenuto a Paolo Emilio Preboani, presidente e amministratore delegato di Italia Lavoro, che ha voluto e organizzato questo festival. Ciao Paolo, benvenuto all'altra Europa. Buongiorno. Allora, questa Europa, dopo in chiusura anche del festival, ormai siamo alle battute, insomma è l'ultimo giorno oggi, no? Se non erro, sì. Questa Europa è stata presentata come un'amica o come una nemica del lavoro? Ma io credo che sia necessariamente un'amica del lavoro, non può essere una nemica del lavoro, ed è per questo che abbiamo dedicato qualche spazio a questi temi, uno stamattina direi molto tecnico sul tema del lavoro e dei diritti, ma in generale il tema dell'Europa, di che cosa può offrire al lavoro, è sicuramente una grande opportunità, una grande possibilità. Ne parlavamo adesso con i temi dell'agrofood, ne abbiamo parlato ieri con i temi dell'industria 4.0, e ci auguriamo che lo sia. Insomma, la riflessione da questo punto di vista è che in questo momento in cui si parla tanto di Europa ci sia la possibilità anche per il lavoro di essere il protagonista. Ti chiedo un'ultima cosa, ci siamo stasera nel pomeriggio alla premiazione del concorso dei corti, qui noi ci abbiamo messo le parole, rimangono le immagini e la musica per raccontare il lavoro, è un tema che scatena la fantasia dei artisti. Sicuramente sì, perché noi abbiamo ormai 4 anni che abbiamo questa esperienza, abbiamo i corti, abbiamo varie esperienze proprio dal punto di vista visivo e culturale, l'operazione Maker che abbiamo fatto, insomma c'è tante cose, e credo che il tratto distintivo è esattamente questo, cioè chiamare una manifestazione come questa a luci evoca molte cose. Lucisullavoro.com, ricordiamo il sito di riferimento per conoscere l'intero programma. Grazie davvero. Grazie a te. E ci colleghiamo con Riccardo Luna, Digital Champion, giornalista di Repubblica. Ciao Riccardo. Buongiorno, eccomi. Ciao. Chiudiamo con te la puntata, abbiamo giusto un paio di minuti, però ci sembravi la persona giusta per fare un riassunto finale. Europa, lavoro, innovazione, qual è il punto d'incontro? Ma che senza innovazione è impossibile creare lavoro. In questi giorni si è parlato molto di Grecia, mi colpisce notare come ci sono degli indicatori di scarsa innovazione che accomunano l'Italia e la Grecia. La Grecia viene presentata come un grande problema finanziario, è in realtà soprattutto un problema economico, cioè di un'economia che non riparte, e non riparte perché gli investimenti in banda larga, gli investimenti in ricerca sono stati adeguati. Quindi è un paese che è rimasto in un'altra economia, un'economia del secolo scorso. Senza innovazione è impossibile creare lavoro, ma l'innovazione dipende da tutti noi. Io sento giustamente parlare spesso di diritti sul lavoro e sono sacrosanti, credo che dovremmo introdurre anche un dovere, ed è il dovere di provarci, il dovere di cercarselo, il dovere di studiare. Senza, se non continuiamo a studiare, se lo studio non dura tutta la vita e le nostre competenze non si aggiornano, è impossibile trovare lavoro. Riccardo, la parola innovazione fa ancora paura? Ma no, la parola innovazione è un momento di festa. Io ho avuto la fortuna per 15 settimane di occuparmi di innovazione con un web show che si chiama appunto The Innovation Game, dove sono venuti innovatori di tutti i tipi, scienziati, ricercatori, inventori, start-upper, maker, ed è stata davvero una celebrazione di un'altra Italia. Quindi no, oggi è di ieri la notizia di questa start-up nata all'Ateneo di Parma, che è stata venduta a un gruppo americano per 30 milioni di dollari cash in contanti. Si chiama VisLab ed è un signore, Alberto Broggi, di 48 anni, professore universitario, che ha cominciato a lavorare sull'auto che si guida da sola prima di Google, anzi, come ha detto lui, quando Google ancora non c'era. Noi siamo un paese straordinariamente capace quando si parla di innovazione. Non ce lo diciamo abbastanza, e non lo diciamo abbastanza a quelli che invece sono assegnati. Questa è l'altra Italia, questo è il dovere di provarci. Grazie davvero Riccardo, ciao e buon sabato. Grazie a voi, bocca al lupo. Saluto e ringrazio Sabina Riati, Eures della provincia di Macerata, ricordiamo questa era la sede. Sabina, l'invito che vuoi fare, prima mi dicevi comunque questo sul primo lavoro, che probabilmente è la parte più bella, più importante, più viva di quello che state combinando ora. Sì, l'invito è contattateci, è facilissimo, nel nostro portale Eures ci sono i contatti di tutti noi, di 900 persone in tutta Europa che possono rispondervi in ogni momento e addirittura chattare con tutti voi dal lunedì al venerdì, quindi è facile contattarci, fatelo, perché potremmo spiegarvi un sacco di progetti e il nostro servizio è gratuito. Ma perché la cosa bella, uno sente e dice sì, vabbè, questi dicono così, poi ci sarà la solita segreteria telefonica, no. Clicca uno se vuoi lavorare in Francia, clicca due se vuoi lavorare in Belgio, invece no, cioè funziona, ci sono veramente tante teste, tante competenze a disposizione, credo che sia quindi una opportunità assolutamente da sfruttare. Ringrazio anche Daniela Rondinelli, consigliere del Comitato Economico e Sociale Europeo e vicepresidente del Gruppo Lavoratori. Non ci hai detto cos'è il Gruppo Lavoratori? È il gruppo 2, il gruppo 1 è composto da imprese e datori di lavoro, il gruppo 2 lavoratori, il gruppo 3 organizzazioni della società civile. Prima mi dicevi che state studiando adesso, analizzando il piano Juncker. Sì, finalmente, dopo 10 anni di commissione Barroso, questa commissione almeno ci sta tentando di mettere insieme un po' di risorse. È stato varato il piano europeo degli investimenti, il cosiddetto piano Juncker, che per il momento partirà con 315 miliardi di euro da investire nell'innovazione, soprattutto nei settori della ricerca, della salute, dell'informatica, informatizzazione, digitalizzazione, trasporti, energia. Quindi stiamo lavorando affinché questi progetti progetti che valuterà la Banca Centrale Europea siano effettivamente dei progetti che possano appunto creare occupazione, occupazione di qualità, perché appunto l'Europa deve continuare ad essere amica del lavoro, quindi creare opportunità, inclusione sociale, lotta alla disoccupazione. Un ultimo dato per chiudere, l'altro giorno andando sul sito del Mise ho notato i dati rispetto alle start-up italiane e devo dire mi ha assolutamente sorpreso. Da 1227 registrate nel 2013 siamo passati a 2136, quindi il più 120% in un anno di start-up di giovani creati in Italia. Molto c'è di innovazione, come diceva il giornalista della Repubblica. Un futuro migliore per il lavoro e quindi per i diritti del lavoro è possibile. Grazie davvero a Daniela Rondinelli. Chiudiamo con un'ultima storia raccontata da Valeria Bassi. Sto frequentando una scuola per parrucchiere ed estetista. A volte penso di voler tornare nel mio paese. Qui non c'è niente, sono sempre a casa da sola con la mia bambina. Avevo tante speranze, pensavo che l'Italia fosse meglio del Senegal. La mia idea era terminare qui gli studi dell'università e poi trovare lavoro. Ho cercato di fare il riconoscimento del mio diploma, ma è molto complicato e troppo costoso. Un'agenzia privata mi ha chiesto 7.000 euro. Non sapevo che avrei avuto questi problemi. Comunque, la scuola di parrucchiere ed estetista che sto frequentando ora mi piace molto. E poi penso di continuare con il riconoscimento del diploma. Grazie a Valeria Bassi, un grazie a Davide Ciocia, a Michele Previato, a Marco Lombardo, Elisa Piras. Questa è la squadra dell'Altra Europa, questa è la squadra di Radio 24 qui a Monte Pulciano. L'appuntamento è a sabato prossimo con l'Altra Europa e vi ricordo anche l'appuntamento di domani alle 9 invece con Terra in Vista, l'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa. In collaborazione con Euronet Plus.